lasci un po' banali. Io direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, da che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene e mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato, e va bene guida tu, che sei brava più di me, io attendo che sia amore. Ma io, ma tu, sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più. A quel sale mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo, ore, ore, ore, miele, come un lago, che se piove un po' di neve o uno stagno, vorrei dire, non conviene. Vedi, divertirsi fa bene, sento che mi rido dentro e questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa. È la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più. A quel sale mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo, ore, ore, ore, come un lago, che se piove.